A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. È un'anonima strada della periferia nord di Milano, via Guerzoni. Si incrociano volti e lingue di ogni provenienza e insieme al rumore del traffico giunge l'eco del via vai del centro islamico di Viale Jenner. Qui, tra questi palazzoni, il 17 febbraio del 2003, Hassan Mustafa Osama Nasr, da tutti chiamato Abu Omar, è stato bloccato, messo in un furgone, trasportato prima ad Aviano, poi in Germania e in Egitto, quindi rilasciato dopo aver denunciato anche torture. Abu Omar, ex imam, che all'epoca, epoca di alta allerta antiterrorismo, era tra i personaggi tenuti sotto controllo dalla Digos. La sua scomparsa ha portato alla luce la pratica delle cosiddette extraordinary rendition, sequestri cioè ad opera della CIA, operazioni si ricostruirà poi ripetute in più parti del mondo ma che in Italia si sono trasformate anche in uno dei più delicati e complessi processi, arrivato ora ad un nuovo capovolgimento. Dopo le condanne agli 007 americani, i giudici d'appello di Milano hanno emesso pesanti sanzioni anche per i vertici dell'epoca del servizio segreto militare, l'ex Sismi. 10 anni per Nicolò Pollari, il capo, per il concorso per quel sequestro, 9 per il numero 3 del Sismi, Marco Mancini. Una sentenza arrivata dopo più ribaltamenti, una sentenza e un processo che ha dovuto fare i conti sempre con il segreto di Stato opposto da 3 diversi governi e confermato da ultimo dall'esecutivo di Mario Monti. Un segreto di Stato che copre le prove della mia innocenza, urla ora Pollari, che si dice sconcertato per questo verdetto. Chiede a chissà di dimostrare la sua estraneità e soprattutto su un punto il generale ritorna in continuazione. Se qualcuno mi avesse dato quell'ora ordine di sequestro, mi sarei rifiutato, dice Pollari con Radio 24. Quindi che vuol dire questo? La CIA ha agito in autonomia sul territorio italiano senza informare la nostra intelligence? Una deduzione dai non pochi interrogativi che resta sullo sfondo delle parole dell'ex potente capo del Sismi, Nicolò Pollari. Eccole. E io cosa c'entro? Qui non dei vaghi testimoni, non delle persone ignote, non dei sconosciuti e oscuri personaggi, ma 3 presidenti del Consiglio dei Ministri, che non sono omogenei dal punto di vista delle posizioni politiche, dicono tutti la stessa cosa, e cioè che esiste il segreto di Stato su determinate situazioni che esulano dalla mia disponibilità. Io ho riferito dal primo momento, guardate, io non c'entro niente in questa storia, non ne so niente, però vi informo che le prove della mia innocenza sono contenute in atti aventi data certa, depositati negli atti del segreto di Stato. Probabilmente in condizioni normali si finisce per chiedere a chi è il responsabile nazionale della sicurezza, cioè al Presidente del Consiglio dei Ministri, scusi, è vero? È stato fatto appena appena. Ecco. È occorso nell'arco di questi anni che tutti questi governi hanno posto il segreto di Stato su questo punto. E francamente, da ultimo, il governo Monti lo ha fatto anche per iscritto, consegnando a noi una lettera che abbiamo dato al Tribunale e sottolineando che le attività che aveva svolto il servizio da me diretto erano attività istituzionali e quindi lecite, perché come è noto il segreto di Stato non può coprire reati. E quindi il governo, dicendo che si tratta di attività istituzionali, implicitamente ma in modo molto palese, rappresenta tutto ciò. Su queste cose c'è un controllo parlamentare, e non solo c'è un controllo parlamentare di una commissione bicamerale perfetta, ma è anche un controllo giurisdizionale, perché la Corte Costituzionale per legge può tranquillamente guardare il segreto di Stato. E come non mi stancherò mai di dire, il segreto di Stato non è un mistero, non è un velo nero, non è niente. Il segreto di Stato è uno strumento che la legge appresta quando vi sono interessi superiori da tutelare. Siccome io non sono l'arbitro del segreto superiore, ma è il Presidente del Consiglio, non capisco perché lo si chieda a me. E quando io dico che la mia innocenza, la mia completa estraneità ai fatti, è lì, è l'unica via e chiedere se è vero. Il segreto di Stato è il nocciolo cuore di questa vicenda, tant'è vero che nei primi processi di primo grado e di secondo grado era stato pronunciato in non luogo a procedere proprio perché il segreto di Stato non rendeva possibile appunto il giudizio. Proprio intorno all'obiezione del segreto di Stato che 3 diversi governi, da ultimo il quarto, il governo Monti ha opposto, da quest'ultimo esecutivo anche un ricorso alla consulta insulta contro la Cassazione che ha annullato quei verdetti appunto di non luogo a procedere. Quindi una vicenda complicatissima. Cerchiamo un po', diciamo, di andare anche un po' per gradi. Su questo ricorso immagino che lei sia d'accordo. Qui le parti sono il governo e l'autorità giudiziaria che ha proceduto. Perché rivolge a me questa domanda? Perché riguarda la sua vicenda. Ma certo che riguarda implicitamente, ma qui c'è un problema di competenza politica e di valutazione giuridico-politica dei fatti. È molto comodo venire da me semplicemente perché io asseritamente sarei la parte più debole. In qualche modo difende quello che lei sta dicendo, cioè difende il fatto che c'è il segreto di Stato. Io non mi nascondo dietro niente. Infatti, se un governo decide di fare addirittura un ricorso alla consulta contro una decisione della Cassazione, ritiene di avere le buone ci sarà motivazioni. Ci sarà un motivo. E allora io, se permette, leggo quello che dice il presidente del uno dei tre presidenti dei consigli pro tempore, che è il presidente Berlusconi. Non posso che esprimere la più totale solidarietà al generale Pollari, della cui assoluta innocenza ho piena contezza. Se avessero chiamato a testimoniare sia me sia gli altri presidenti dei consigli dei ministri, che hanno anch'essi ritenuto di apporre il segreto di Stato nell'interesse della sicurezza nazionale, non avremmo che potuto confermare come vi sia la prova oggettiva della sua completa estraneità ad ogni condotta antigiuridica. Ed infatti lei stesso ha più volte detto perché non hanno chiamato a testimoniare i presidenti del Consiglio, lei l'ha detto più volte. No, io mi sono lamentato anche di questo, io mi sono lamentato del fatto che a me è stato tolto il diritto di difesa, col pretesto che essendoci il segreto di Stato ci potevano essere dei limiti. A me, in nessun grado di giudizio, né a me né agli altri imputati, è stato consentito di portare un testimone. Non ho potuto portare alcun mezzo di prova se non le mie dichiarazioni spontanee. Alcuni li abbiamo già citati, che sono chiaramente i presidenti del Consiglio che volta per volta hanno apposto il segreto di Stato. Ma chi sono, ci sono oltre a loro altre persone che in qualche modo potrebbero testimoniare se ci fosse ancora un altro processo, o se anche al di là dei processi potrebbero pubblicamente, diciamo, raccontare come sono andate le cose? Chi sono? Guardi, tutti coloro che hanno avuto a che fare con questa vicenda, e intendo riferirmi agli organi parlamentari e di governo, oltre a quelli di vertice, ministri, sottosegretari e quant'altro, tutti i responsabili dei servizi. Basterebbe chiedere a qualunque capo di Stato, anche di paesi arabi, lo sanno tutti. Che vuol dire? Lei pensa che il governo egiziano, dove per esempio questa signora stava portando, non sappia chi si è occupato di questa vicenda, visto che l'ha ospitato? Penso di sì, no? Certo. Sarebbe chiedere. Per caso hai avuto qualche collaborazione diretta e indiretta? Io non c'entro niente con questa cosa, ma non c'entro niente, non solo perché non l'ho fatto, perché la mia storia, e non è una storia breve, è una storia di decenza. Non avrei mai commesso atti contro l'incolumità e la dignità delle persone, non l'ho mai fatto. Non ho mai consentito che venisse maltrattato o un arrestato. Ho vigilato perché ciò avvenisse. Quando ho potuto, io ho presenziato, non ho neanche mai messo le manette a persone arrestate, per rispetto delle persone, malgrado il mio dovere me lo imponesse. E questo è noto ed è notorio a tutti. Se qualcuno mi avesse ordinato di fare cose di questo genere, come ho detto in tutti i modi, mi sarei rifiutato in termini decisi e senza alcuna perplessità. Ho anche aggiunto che con la stessa tenacia con cui io, a mio danno, mi ostino a rispettare la legge opponendo il segreto di Stato, avrei rifiutato ad un ordine. E di questo, come ho detto sempre, mi sono assunto ogni responsabilità. Ho una sicura aspettativa che tutti coloro che debbano fare il loro dovere lo facciano, perché io non credo che sia tanto lecito, né giuridicamente né moralmente, che sapere dell'innocenza di una persona e stare a guardare quello che succede dal balcone sia consentito e lecito per alcuno. Concretamente questo che vuol dire, generale? Chi è che dovrebbe fare cosa? Concretamente vuol dire esattamente quello che ho detto. Cioè che le persone a cui facevamo riferimento prima, guardi, quindi tutte le persone scusi, in grado di... Mi sembra di essere stato particolarmente esplicito. Non andrò al di là del consentito, né al di là di quello che è giusto che io dica come pubblico funzionario. Io dico semplicemente che in linea generale è corretto e giusto attendersi che coloro che hanno contezza della mia innocenza compiano tutti gli atti per fare il loro dovere. Ritorniamo alla prima domanda. Che cosa appunto abbia a questo punto rappresentato questo processo con tutte le vicende di cui stavamo parlando adesso e poi appunto questa sentenza con questa pesante condanna per lei? Quello che può rappresentare per una persona innocente trovarsi coinvolto in un processo, francamente anche il disagio di doversi sentire addirittura dichiarare colpevole di fatti che io non solo non ho commesso, che io non ho consentito di commettere. Questo vuol dire che lei e i suoi uffici non sapevate nulla di tutto quello che avveniva e che quindi la CIA ha agito per propria iniziativa sul territorio italiano. Questo vuol dire che io neanche surrettiziamente le posso dare una risposta che possa violare il segreto di Stato. E anche se la sua domanda è molto intelligente, perché lei è molto abile, io le dico che io e i servizi dei miei diretti siamo totalmente estranei a questa vicenda. E se qualcuno avessi anche solo pensato di ordinarmi una cosa simile, avrei rifiutato, perché io queste cose non solo non le ho fatte, non ho neanche consentito che venissero pensate. Per cui, mettendo insieme le sue risposte, questo vuol dire appunto che tutto ciò che è stato la vicenda del rapimento dell'ex imam Abu Omar e le famose extraordinary rendition che sono avvenute anche in altre parti del mondo, compresa l'Italia, in questo caso specifico sono avvenute su diretta ed esclusiva iniziativa da parte della CIA sul territorio italiano, senza che l'Italia e i suoi servizi, a cominciare dal SISMI, ne sapesse nulla. Me la potrei cavare rispondendolo come dice la Bibbia, tu l'hai detto. Io però non me la cavo così e le dico, sa che di recente è venuto fuori un documento nel quale sono stati indicati molti paesi europei che hanno collaborato a queste operazioni di rendition, no? Molti paesi anche dell'Europa continentale, che di solito sono riguardati come paesi di più remota sensibilità sociale. Allora io le affermo con sicura certezza che nel periodo in cui io sono stato direttore del SISMI, l'Italia non può essere compresa in questo documento, senza tema di smentita. E questa mi sembra una risposta a quello che io prima le avevo chiesto. Io le ho risposto nei limiti del mio consentito. Certo, capisco perfettamente. E ovviamente io intendo sottolineare io e il SISMI da me diretto. Chiaramente. Perché io rispondo per me e per il periodo che mi riguarda. Una nuova sentenza con una pesante condanna questa volta. Una nuova sentenza dopo due pronunce di non luogo a procedere perché il segreto di Stato rendeva impossibile, aveva stabilito la Corte, giudicare. Una nuova sentenza che non sarà l'ultima per una delle più delicate e difficili questioni degli ultimi tempi, il rapimento dell'ex imam Abu Omar. Io e il SISMI non c'entriamo, se qualcuno mi avesse dato quell'ordine mi sarei rifiutato, ha già detto nella prima parte di A Ciascuno il Suo il generale Nicolò Pollari, già potente capo del SISMI, condannato ora a 10 anni per aver concorso insieme alla CIA a quel sequestro. Un sequestro che è tema ora anche di un ricorso alla Consulta da parte del governo contro la Cassazione. E mentre rivendica la sua totale estraneità alle accuse, Pollari dice ai politici: chi ha il quadro degli atti aperti dal segreto parli. E da qui ripartiamo, dall'attesa per le prossime pronunce, ma anche dal quadro dell'effettivo pericolo corso anche in Italia di attentati. Io ritengo che in una democrazia la verifica delle verità sia un fatto doveroso. Come mi sono posto rispetto a tutta questa storia? Mi sono posto con grande sorpresa, rilevando talvolta che sembrava che fosse un mio problema personale, perché se qualcuno mi ha impedito di difendermi, e lo ha fatto legittimamente, io penso che accanto al impedirmi di difendermi deve svolgere tutte quelle attività che mi ristorino della mia impossibilità di difendermi. Non è che per osservare la legge poi il problema diventa mio. Se io osservo la legge e se l'osservanza della legge, per esempio, mi ponesse dei limiti all'esercizio, in questo caso, del mio diritto di difesa, qualcuno se ne deve dar carico, penso, no? Perché io ho lavorato per lo Stato, non ho mica lavorato per me. Cioè lei si è sentito anche un po' scaricato da certa parte? No, non mi faccia dire quello che non ho detto. Il governo ha fatto il suo dovere. Se la legge indica dei percorsi, perché non vengono seguiti? E la legge deve mica rispettare solo io, la devono rispettare anche gli altri. La sua presenza in quel processo come imputato era sì una presenza, diciamo, personale, ma era in quanto direttore del SISMI e quindi in quanto funzionario dello Stato, è evidente, e dell'ufficio che lei ha diretto. Questo è un aspetto che io vorrei che fosse chiaro. È sempre stato molto chiaro. Io sono una persona che ha ricevuto una condanna Anna ha 10 anni. C'è un presidente del Consiglio che dice due cose, che a lui consta, anzi dice che ha piena contezza della mia innocenza e che se lo avessero chiamato a testimoniare, così come avrebbero fatto gli altri due presidenti del Consiglio, che hanno poi il segreto di Stato, non avrebbero che potuto confermare come vi sia la prova oggettiva della mia completa estraneità a ogni condotta antigiuridica. Capisco. Io sono una persona condannata a 10 anni, nessuno li ha interpellati. Quindi lei dice i magistrati, la Corte avrebbe avuto l'obbligo di interpellarli e di convocarli. Io dico che lo prevede la legge questo, non lo dico io. A questo punto, in attesa di vedere quali potrebbero essere gli sviluppi di questa vicenda, un ristoro, diciamo, potrebbe essere per lei se queste persone che non hanno deposto in aula in qualche modo pubblicamente raccontassero come stanno le cose? Io ho chiesto con ossessiva insistenza, anche fino agli ultimi giorni, di essere sciolto dal segreto di Stato. Mi è stato ordinato per iscritto il contrario, anche di recente. Ho notificato quest'ultimo ordine al Tribunale prima della sentenza. Il Governo Mondico ci ha scritto una lettera in cui ci ha imposto di continuare a opporre il segreto di Stato, indicando alla Corte che il comportamento tenuto dal Sismi con riferimento alla questione del processo sono atti istituzionali. Torno a dire, in qualche modo un ristoro potrebbe essere se nello specifico, non so, all'epoca il sottosegretario Letta... Senta, io non voglio nessun ristoro da nessuno, io voglio che si rispettino le regole, punto. Se io avessi inteso violare il segreto di Stato, dopo 3 minuti io non sarei stato più nel processo. Non l'ho fatto in obbedienza alla legge e mi trovo qua. È molto comodo prendersela così, acchiappare chi è più fragile. Io non sono fragile. Direi che per arrivare anche alla guida del Sismi non si può essere fragili. A proposito di guida del Sismi, io non ho colori politici e infatti mi trovo in questa situazione. Le posso chiedere se dopo la sentenza lei ha avuto telefonate o messaggi in qualche modo di solidarietà da parte di funzionari con cui ha collaborato, anche rappresentanti politici? Ovviamente moltissima solidarietà, certamente, da parte di tutti. Dove qui l'hanno chiamata anche i vari suoi referenti nel corso degli anni della sua lunghissima carriera? Mi hanno chiamato innanzitutto i suoi colleghi, in massa. Sono stati più puntuali, più affettuosi e più espliciti. Mi hanno chiamato centinaia di persone, magistrati, ma specialmente i suoi colleghi, guardi. E i politici? Certo, mi ha chiamato anche qualche politico in termini policromi, dall'uno all'arco del Parlamento. Ma molta gente, come le ho detto, eccetera, mi ha chiamato per esprimermi il loro sconcerto per quello che è avvenuto, più che per darmi la solidarietà. Quella fase storica, diciamo così, in cui lei ha diretto il Sismi, che è stata una fase che è passata attraverso degli anni molto complicati, molto difficili, sotto tantissimi punti di vista per il nostro paese, comprese quelle appunto della sicurezza. Specialmente quello della sicurezza. Noi abbiamo vissuto delle guerre in quel periodo storico. E per molte persone le guerre erano notizie di giornale. Per noi la guerra era come se fosse qui dietro a Viterbo. Noi avevamo problemi di garantire la sicurezza all'interno del nostro paese, da attentati e da quant'altro. Ora sa, in Italia tutto quello che non succede non doveva succedere. Tutto quello che succede dice, ma perché non? Come mai nessuno se n'è accorto? Da noi non è successo nulla, sarà sicuramente un caso, può darsi pure di no. Gli è sempre stato dato atto in un certo senso che il valore e il lavoro anche dei servizi di intelligence ha impedito che in Italia succedessero casomai situazioni analoghe a quelle che si sono ripetute anche in altri paesi europei, la Spagna, l'Inghilterra. Lei in tutti quegli anni in cui è stato alla guida del Sismi, qual è stato il momento in cui ha sentito maggiormente la pressione di un pericolo per il nostro paese? Durante un certo numero di anni noi abbiamo vissuto quotidianamente la sensazione, e qualcosa di più della sensazione, di un pericolo che aveva molte facce. Ci siamo misurati con quel problema. Grazie a Dio è andata bene. Non voglio dire che sia merito nostro, forse anche. Certo, è stato un periodo in cui abbiamo dormito poco, anche dal punto di vista fisico. Non era un periodo tranquillo in cui si poteva fare il burocrate e il passacarte. C'erano guerre, c'erano persone che naturalmente coltivavano nei nostri confronti, poi c'era un terrorismo abbastanza in una fase abbastanza acuta, sentimenti non sempre di condivisione delle nostre posizioni, quindi taluno poteva manifestare il proprio dissenso in un modo, taluno in altro. E noi ci occupavamo di chi avrebbe potuto manifestarlo in termini inaccettabili, no? E lei immagina che il pericolo può essere multiforme, perché può essere un micro o un macro pericolo, no? E ci sono stati degli anni in cui dal 2001 in poi, in tutto il mondo occidentale, ma anche in Europa e quindi anche in Italia, ciclicamente si sentiva il maggiore o minor peso di un rischio attentati in Italia, dopo che c'era stato a Londra, dopo che c'era stato a Madrid. Ecco, questo rischio c'è stato concretamente anche per il nostro paese in qualche momento specifico? Io non lo escludo. Non escludo che il nostro paese possa essere destinatario di un pericolo di questo genere. Molti paesi, anche europei e anche importanti, si sono stati molto riconoscenti per aver cooperato con loro in termini utili e costruttivi. Noi abbiamo avuto una buona collaborazione, una buona attività, siamo stati anche fortunati, perché nella vita ci vuole anche quello, però non abbiamo certo vissuto un periodo né comodo né tranquillo. Noi avevamo avuto delle guerre, ma nel 45-46 erano finite. Ecco, forse qualcuno non ha riflettuto sul fatto che quando si partecipa ad operazioni militari in senso attivo, quindi non solo in operazioni di peacekeeping o di peace enforcement, ma si fa in operazioni attive, probabilmente è anche lecito supporre che ci possa essere qualche reazione scomposta, anche nel territorio nazionale. Che ci fossero anche in Italia degli attentati come ritorsione per la partecipazione del nostro paese appunto in delle guerre. Non solo come ritorsione. Diciamo che, come le ho detto, io non escludo affatto che il nostro paese possa essere stato attenzionato sotto questo punto di vista. E invece per il futuro? La situazione del nostro paese sotto questo profilo non la vedo con una preoccupazione massima. Certo, penso che rispetto a dei fenomeni patologici che ogni tanto avvengano, eccetera, micro fatti non siano obiettivamente da escludere. Naturalmente non viviamo una situazione così acuta come in costanza di un periodo in cui c'erano delle vere e proprie guerre in corso. Però il problema non lo si può escludere. Sullo stesso tema potete ritrovare sul sito di Radio 24 anche l'intervista che avevamo fatto tempo fa allo stesso Abu Omar dall'Egitto, oppure quella ai magistrati Armando Spataro e Ferdinando Pomarici. Fatemi sapere cosa ne pensate sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter l'account invece è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.